Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Proprio nella pausa pranzo del fatidico 11 dicembre 1979, chiacchierando con il mio amico Tito Segre, gli dico: sai Tito, secondo me potremmo essere un obiettivo per un'incursione terroristica. Mi chiamo Guido Novaro, vivo a Torino, ho 58 anni e mi occupo di marketing e comunicazione. A me succede sempre una cosa strana, o perlomeno strana, mi succede una cosa quando leggo i racconti che ci arrivano a Voi siete qui, @radio24.it. Tra l'altro, a tutti quelli che chiedono se inviarli ancora, se c'è ancora tempo, il tempo c'è sempre, avete tutta l'estate, li collezioniamo e li archiviamo per la prossima stagione. Vi dicevo, quando sono lì di solito da solo, cioè quando si legge una cosa si è da soli, e leggo i racconti degli ascoltatori, mi sembra diventare un po', non dico amico, però di conoscere un po' quella persona, anche solo per il fatto che si è aperta e mi racconta un pezzo della sua vita, e alla fine mi sembra di conoscerlo un po', che poi è di fatto lo scopo di questo programma, raccontare storie di persone in modo da sentirci un po' meno soli e verificare che effettivamente siamo tutti fatti più o meno della stessa roba, della stessa materia. E quando in queste storie all'autore della storia, che quindi è anche il protagonista, succede qualcosa di strano o di brutto, di spiacevole, a me sembra impossibile che sia successo. Cioè, mi sembra impossibile che a quella persona che un po' conosco perché mi ha scritto quella roba sia successa una roba, soprattutto se è brutta. Quando questa cosa è poi un pezzo della storia recente di questo paese, è un pezzo orribile della storia recente di questo paese, mi sembra quasi impossibile che quella cosa sia accaduta realmente. E invece quello che vi sto per raccontare non solo è accaduto davvero, era l'11 dicembre del 1979, ci trovavamo a Torino alla scuola di amministrazione aziendale di Torino. Non solo c'erano le Brigate Rosse, ma c'era anche Prima Linea in quel periodo, e c'erano dei ragazzi che evidentemente avevano un po' perso la testa e facevano delle vaccate in giro, e poi per tutto questo spero più o meno che abbiano pagato. Quindi non solo quella roba è successa, ma quella che sto per raccontarvi, cioè la storia di Guido, è proprio un punto di vista totalmente interno a quell'episodio, che è un episodio che forse alcuni si ricordano. Per chi non se lo ricorda o per chi non l'ha mai sentito, vi dico: guardate, non serve che andiate a cercare su Google, ascoltate la storia di Guido e ne saprete di più. Siamo alla fine degli anni 70 a Torino, città che ha quasi sempre anticipato eventi che si sono riprodotti altrove o che hanno generato vere e proprie rivoluzioni sia sociali che industriali. Questi dei quali mi accenno a parlare sono i tristemente famosi anni di piombo, anni che hanno visto il sacrificio umano di uomini e ragazzi al servizio dello Stato, della comunicazione e delle imprese, colpevoli unicamente di fare un lavoro onesto che amavano, ma che a causa della follia di giovani uomini e giovani donne, desiderosi di cambiare la società e abbagliati dalle distorte lezioni dei cattivi maestri, hanno impugnato un'arma e l'hanno scaricata loro addosso. Torino in quel periodo era una città blindata. Noi ragazzi avevamo fatto l'abitudine ai posti di blocco delle forze dell'ordine, nei quali dei ragazzi in divisa armati di mitra ci fermavano e perquisivano. E questo poteva accadere anche due volte di fila in un semplice tragitto in auto di 5 km, ad esempio tra la propria abitazione e una sala cinematografica. Anzi, eravamo addirittura grati a loro e in fondo pensavamo: per fortuna che ci sono loro, guidati dal mitico generale Dalla Chiesa. Alla fine degli anni 70 avevo 20 anni e studiavo alla scuola di amministrazione aziendale, che è una business school con una specializzazione in marketing. Le notizie di cronaca dei quotidiani dell'epoca battevano con lugubre frequenza le notizie relative a questo omicidio o a quell'attentato, terminato solo con la gambizzazione di un povero servitore dello Stato o un giornalista. In questa atmosfera vivevamo i nostri 20 anni. Io personalmente, rientrato in Italia da 2 o 3 anni dall'estero, dove per problemi di sicurezza la mia famiglia mi aveva spedito, eravamo a rischio di sequestro di persona. La scuola di amministrazione aziendale di via Ventimiglia a Torino era ed è una business school specializzata nella formazione manageriale e preparava giovani studenti aprendo loro opportunità di lavoro. Gruppi come la Fiat, l'Oreal o la Ferrero vedevano di buon occhio i curricula che provenivano da questa scuola. La frequenza era obbligatoria e ogni giorno, tra le 9 e le 16, si frequentavano le lezioni nelle diverse discipline che i docenti, a volte erano dirigenti di azienda, ci insegnavano. Pausa pranzo alle 13, al bar interno. proprio nella pausa pranzo del fatidico 11 dicembre 1979, chiacchierando con il mio amico Tito Segre, gli dico: sai Tito, secondo me noi potremmo essere un obiettivo di un'incursione terroristica. Ma dai, cosa cavolo dici? Mi rispose lui. Ore 15:15. Mentre seguivamo in aula la lezione del dottor Vercellone, presidente del Tribunale dei Minori sul diritto del lavoro, una voce alle nostre spalle intima: siamo di prima linea, mani in alto e lei, professore, ci segua. Il primo pensiero è stato: ma guarda sti deficienti del primo anno, che cavolo di scherzi che fanno. Poi mi giro e vedo una donna che impugna una Uzi, un mitra israeliano, e un uomo che brandiva una calibro 357 a canna corta e che sotto l'oden, attaccate alla cintura, mi sembrava avesse delle bombe a mano. Ancora incredulo penso invece ad una rapina, tipo quelle che accadevano allora con frequenza nelle pizzerie o nei ristoranti. Entravano, rapinavano soldi, orologi, gioielli e via. Immagino fosse un sistema di finanziamento dei terroristi. Dunque dico a Tito: dai, slacciami il cinturino dell'orologio così mi scivola nel polsino. Ma a quel punto sento un perentorio: sdraiatevi sotto i banchi e non guardate, o altrimenti vi ammazziamo. Per il mio tempo che nei tuoi occhi imprigionato, per l'innocenza che cade sempre solo a lato, per i sussurri mischiati con le nostre grida ed i silenzi. In quel momento ho pensato: ecco, tutti gli anni all'estero e ora mi ritrovo qui. Adesso faranno l'appello, se mi chiamano cosa gli dico? Assente? E sembra una battuta, ma non so se l'incoscienza dell'età o una qualche misteriosa forza interiore che ti aiuta a sdrammatizzare le cose, durante tutta la mezz'ora nella quale è durata l'incursione, tra noi ragazzi, sottovoce, sono circolate battute tese a sminuire la tensione che si era insinuata e che stava pervadendo alcuni allievi ed allieve. Di lì a poco la stessa voce ci ordina di uscire dall'aula e di incolonnarci verso l'aula magna. Durante il percorso noto alcuni altri terroristi armati del famoso AK-47 che stavano rastrellando le aule e scortando tutti nell'aula magna. Attraversato l'ingresso noto che l'aula era stata presidiata. Un terrorista al centro, in alto, ed uno in fondo. Un altro subito dietro l'ingresso, tutti dotati di AK-47. Oltre ad uno in cattedra. In totale mi sembra di ricordare fossero in 15 tra uomini e donne. La stessa voce ci intima di inginocchiarci per terra e di tenere le mani dietro la nuca. A questo punto mi obbligo a cercare di osservare tutto: volti, abbigliamento, armi, tutto quello che, se fossi uscito vivo, mi sarebbe servito per contrattaccare con i limiti che la legge mi avrebbe consentito, e dunque identikit e testimonianze. I terroristi protagonisti dell'assalto alla scuola avevano l'età degli studenti universitari, avevano un'età che poteva essere compresa tra i 20 e i 25 anni. Erano vestiti in modo elegante, avevano loden verdi, guanti di peccari, scarpe scamosciate, pantaloni di vigogna, e portavano delle sacche da sport all'interno delle quali avevano probabilmente, prima di entrare all'interno della scuola, nascosto le armi e tutto l'occorrente per l'assalto. Una terrorista bionda dalla cattedra inizia una lezione sul perché di questa azione. Le solite parole deliranti su multinazionali, sfruttatori, formazione dei futuri dirigenti, su quanto fossimo bastardi e vigliacchi a fare parte del sistema. Qui, oltre alle battute di cui sopra, tipo: ma non è che a questo punto arriva la cavalleria? Ecco, ha iniziato a montare in me una cosa che definire incazzatura nera non rende abbastanza. In questa situazione quello che senti è il profondissimo senso di umiliazione e di frustrazione. Il cervello accelera il pensiero e l'attenzione e i sensi diventano acutissimi. Ti senti come un centometrista sui blocchi di partenza, pronto a cogliere un'occasione e a scattare contro il nemico. Mentre continua la lezione sentiamo distintamente una serie di colpi d'arma da fuoco, almeno 20, esplosi con una cadenza ritmata che non faceva pensare alla cavalleria, ma qualcosa di peggio. Di lì a poco infatti entra in aula una terrorista che dice a quello che doveva essere il capo: perché quelli là sì e questi qua no? Ho pensato in quel momento che sarebbe finita. Aspettavo una raffica di mitra, potevo solo sperare, nella moltitudine di 90 persone, di avere fortuna di non essere colpito. E poi cosa voleva dire quelli là sì? Ma una frazione di secondo dopo il capo dice: andiamo, dobbiamo andare. E a voi dico che se uscite di qui prima di 10 minuti sarà una strage. E poi, lasciando sulla cattedra un proiettile AK-47, disse: questo è per il vostro amico dalla chiesa, dateglielo quando lo vedrete. Il senso di sollievo per lo scampato pericolo dura una frazione di secondo e nella testa rintocca come una campana a morte la frase: perché quelli là sì? In breve ci liberiamo, avevano chiuso le porte dell'aula. Mi precipito verso la zona dalla quale avevo sentito provenire gli spari. In un lago di sangue, 10 nostri colleghi erano sdraiati e ci guardavano quasi attoniti, increduli, con una smorfia di dolore accennata sui loro volti. Erano stati gambizzati, li avevano legato le mani dietro la schiena, li avevano fatti inginocchiare e avevano dato fuoco. Intervengo e grazie a qualche conoscenza di pronto soccorso piazzo una persona accanto ad ognuno, leggo sopra le ferite un laccio emostatico improvvisato con la tela dei calzoni delle vittime e do indicazioni alle persone piazzate accanto di riaprire il laccio ogni tanto in modo da far scorrere il sangue. Altri si occuparono di allertare ospedali e polizia e da lì a poco arrivò finalmente la cavalleria. Occhiali scuri e un cappello di paglia, Guido nella foto che ci ha mandato, il mento appoggiato a un polso e sembra abbastanza pensieroso. Pronto Guido, buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, ti ringrazio. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono in un ufficio mio. Ok, detto così sembra che c'hai un sacco di uffici. No, in effetti lavoro da Torino e da Milano. Ah, ok. E ti occupi di marketing, giusto? Marketing e comunicazione, questo un po' da sempre, sì. Ma per una società tua o per delle... Mi occupo in questo momento per una società milanese e torinese. Ok, sì. Ok. Senti, grazie per la tua storia, perché appunto voi siete qui a un calendario tutto suo, nel senso che di solito, che so io, programmi o giornalisti, informazione, giustamente, quando ci sono delle scadenze, no, delle date, parla di quella cosa lì che è successa 20, certo, 30 o 100 anni fa. Noi invece seguiamo il calendario delle storie che ci arrivano e quindi oggi, anche se è una bella giornata di giugno, raccontiamo invece di una giornata non tanto bella che era nel dicembre del 79. Tu te la ricordi tutta, Guido? Sì, beh, quelle cose difficilmente si scolorano nella mente, rimangono impresse a colori piuttosto vividi, insomma. Senti, la prima cosa che mi viene in mente, che mi è venuta in mente quando ho letto proprio il tuo racconto è stata, cioè è stato, che effetto avrebbe fatto su di me subire una cosa di questo tipo, no? E quindi è la prima cosa che ti domando, tu sei cambiato da quel giorno, cioè è cambiato qualche cosa in te? No, non credo davvero. Penso proprio di no. L'essenza che mi compone è rimasta, credo, tale e quale. No. Ho avuto dei momenti per qualche tempo in cui avevo delle difficoltà, per esempio, a stare in un locale pubblico con la schiena verso la porta, dovevo sempre controllare tutto quello che succedeva all'ingresso, ma è durato qualche anno. Poi, per fortuna, anche quel fenomeno lì è sparito. Senti... E perché questa storia del terrorismo, a un certo punto, mi ricordo molto bene la data, nel senso che quando le Brigate Rosse sequestravano Dozier e fu disequestrato, sì, si sciolse come neve al sole, come e non se ne parlò più. A un certo punto ci trovavamo senza le camionette ai bordi delle strade, senza i blocchi stradali di filo spinato e tutto cambiò sotto pelle, ma a un certo punto tornò il sole, finito, boh. E noi siamo rimasti, credo, quelli che eravamo, insomma, anche il mio amico Tito, che frequento tuttora, è quello che conoscevo prima, durante, certo, e dopo, non è cambiato. Tutto dura più o meno 30 minuti, giusto? Sembra... Tre quarti d'ora. E di fatto voi siete riuniti nell'aula magna e quanti sarete? Una novantina, un centinaio di persone? Guarda, c'erano 2 anni, perché è un biennio, credo, due sezioni per, sì, biennio, sì, 80 persone, insomma. E lì ci sono questi 5-6 terroristi che vi fanno questa pseudo lezione. Sì, sì, perché avendoci piazzati nel parterre dell'Aula Magna eravamo tutti molto controllabili dall'alto. Gli altri si erano occupati invece di raccogliere, decimare è una brutta parola, comunque di raccogliere poi le vittime che sono state gambizzate, le hanno inginocchiate, gli hanno legato le mani dietro la schiena con dei lacci, quelli che gli elettricisti usano per chiudere le fascette, li hanno inginocchiati a distanza di un palmo dalle cosce, gli hanno sparato due colpi di 7,65 ognuno nelle cosce. E senti, io mi sono andato un po' a informare, erano 10 persone come dici, ma erano 5 professori e 5 studenti, giusto? Sì, sì, sì. E in base a cosa li hanno scelti? Allora, i professori, perché comunque lì insegnavano docenti ma anche dirigenti multinazionali che trasferivano le loro esperienze su di noi ragazzi, e credo gli studenti assolutamente in modo casuale, tu sì, tu no, ecco, una cosa così. Li hai mai più visti poi loro? Ho incontrato a Roma, cioè a Fiumicino, in aeroporto, uno dei gambizzati, ma ti dico, sarà stato 10 anni dopo. Ma poi casualmente? Sì, casualmente, casualmente, che zoppicavo un po', poverino, perché le cosce sembra un arto che non genera problemi, ma lì passa la femorale e poi se un proiettile ti colpisce il femore è chiaro che te lo spacca. Senti, Guido, non abbiamo tanto tempo, però visto che tu l'hai vissuto e te le ricordi, e c'è gente tipo me, ad esempio, anche più avanti, sono del 75, io gli anni di piombo li ho sempre solo sentiti, è quasi una definizione che però sfugge. Sì. Com'era, veramente, scusami, ma in 30 secondi, com'era l'Italia di quegli anni? C'era un sacco di disoccupazione? Direi che c'è. Personalmente avevo di più la consapevolezza che ci fosse la speranza di un futuro migliore che non adesso, però non so se è l'età, essendo adesso, avendo io 58 anni, il disincanto della vecchiaia fa sì che le speranze diminuiscano, mentre da ragazzi pensavi che il domani sarebbe stato meglio di ieri, ma eravamo tutti abbastanza convinti di questo. I ragazzi erano poi divisi perché sei più estremista in quei momenti, no? Quindi radicalizzi le tue idee. Oggi direi che, essendo crollato tutte le ideologie, a questo punto tendiamo tutti al buon senso, mi auguro, almeno la maggior parte, che non ha colore, non ha ideologia. Lo speriamo tutti. È la speranza che prevalga. Chiaramente. Guido, ti ringrazio davvero per la chiacchierata e per la storia che hai mandato, che è stata preziosissima. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, a presto. Ciao. Io ringrazio chiunque mi scriva: Matteo, tu non c'eri nei 70 e non puoi capire davvero. Sicuramente non posso capire davvero. Quello che capisco è che questa comunque era una porcheria. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e grazie a Pietro Lacorte. Grazie soprattutto a Guido, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Claudio, vivo a Fiume Veneto in provincia di Pordenone, la storia di domani è la mia e parla di una pesca miracolosa. Questa è la mia storia e io sono qui.